Radio 24 Reportage. Cosche e logge, il muro di gomma della Calabria, di Raffaella Calandra. Nel momento in cui ho cercato di mettermi in gioco in maniera autonoma, sono stata fortemente contrastata da questa casta di professionisti che in ogni modo mi hanno ostacolata ad andare avanti, scoraggiandomi, addirittura anche con qualche minaccia. Io di questo sono molto indignata e molto arrabbiata. Si gonfia di rabbia e di indignazione la voce di questa giovane donna che si è scontrata con uno dei più difficili muri di gomma della Calabria. Francesca, ma questo è un nome di fantasia usato a sua tutela, avrebbe voluto lavorare come commercialista, il mestiere che si era scelta, per il quale aveva studiato e faticato nella sua terra d'origine, prima di arrivare in Calabria per amore. Ma quel mestiere qui, lei non l'ha mai potuto di fatto esercitare in autonomia, perché a lei, venuta da fuori, estranea ad ogni genere di clientele, consorterie e amicizie allargate, non è di fatto mai stato permesso di accedere a quel mercato, che qui, più che altrove, in non pochi settori sembra essere tutt'altro che libero. Mi è stato sempre confidato anche da altre persone della mia età che appartengono ad altre professioni, che anche loro hanno riscontrato queste difficoltà. Quindi se non sei figlio di un professionista già affermato, o nipote, o parente, o amico, è veramente molto difficile potersi inserire in un contesto professionale. Io comunque vengo da una città lontana e avrei voluto farmi strada da sola, semplicemente con la mia professionalità, che in altri contesti. Io sono andata avanti tranquillamente e benissimo, e all'improvviso mi sono resa conto di non essere capace di svolgere la professione. Muro impenetrabile, ma non ti danno neanche l'opportunità di approcciare da lontano, cioè la porticina non si apre neanche un po'. È una cosa gravissima. Gruppo di persone che si aiutano tra di loro per far sì che nessuno dall'esterno possa interferire nelle loro attività professionali, così la torta è quella e la mangiano solo loro. Che ruolo ha la massoneria in questa cappa ostinata contro cui molti professionisti finiscono per scontrarsi, per cui non si lavora se non si è amico degli amici, introdotto in certi circuiti, avvezzo a precise dinamiche e regole non scritte? Non pochi fanno coincidere questi precisi e ristretti giri anche con le logge massoniche. Ce ne sono praticamente in ogni città in Calabria e anche nelle più piccole. 73 in totale quelle ufficiali riconosciute dal Grande Oriente d'Italia, 11 solo a Reggio Calabria. Numeri che fanno della punta dello Stivale la zona con la più alta percentuale di fratelli massoni in rapporto agli abitanti maschi, visto che solo gli uomini possono iscriversi. Ma perché in tanti continuano a voler entrare nei tempi della massoneria, per dirla col loro linguaggio, forse perché effettivamente e concretamente conviene? Fin qui tutto potrebbe essere lecito, o quasi. Ma la domanda è: che rapporto esiste tra l'altissima percentuale mafiosa della Calabria, dove l'andrangheta è diventata la mafia più potente al mondo nella regione più povera d'Italia, e questo incremento costante di iscritti alle logge, dove si può entrare solo se presentati da un altro fratello? Una domanda che si stanno ponendo anche i membri della Commissione parlamentare antimafia, che hanno sequestrato gli elenchi degli iscritti di Calabria e Sicilia. E da una prima lettura appare, a detta del vicepresidente Claudio Fava, un'adesione che sfugge ad ogni controllo, con le logge coperte e i fratelli all'orecchio, dice, prima di ammettere come sia più di una sensazione che propagini si spingano nel Parlamento e forse, dice Fava, addirittura nella Commissione antimafia. E in fondo proprio un collaboratore di giustizia tempo fa aveva dichiarato a verbale che pure magistrati c'erano tra gli incappucciati, a quanto ci racconta il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Qual è l'importanza della rivoluzione sandinista? Che poteva far parte dell'andrangheta e della massone deviata, cioè poteva avere la doppia affiliazione. Questa è stata una grande rivoluzione, perché consentire ad un andranghetista di partecipare ad una riunione di una loggia massonica deviata voleva dire avere a che fare con medici, ingegneri, avvocati. Anzi, un collaboratore di giustizia ci ha spiegato come c'erano 3 incappucciati in questi locali, in questi templi, e tra gli incappucciati c'erano anche dei magistrati. Questa è stata la grande rivoluzione dell'Andrangheta. Poter sedere intorno ad uno stesso tavolo con professionisti che gestiscono casomai appalti o si occupano di pubblica amministrazione e poter addirittura arrivare ai magistrati che indagano. Se le cose stanno davvero così, è forse per questo che i numeri degli iscritti alle logge sono tra i più alti d'Italia? Se lo chiede la Commissione Antimafia, che ha pure presentato con la vicepresidente Fava una proposta di legge per ribadire il divieto all'iscrizione alla massoneria per i magistrati e forze dell'ordine, divieto già sancito dalla CSM per le toghe, e stabilire l'obbligo invece di dichiararne l'appartenenza per parlamentari e dipendenti pubblici. Stanno valutando gli elenchi alla luce anche delle indicazioni che sono arrivate dalle inchieste giudiziarie in corso, alla luce delle indicazioni di segnalazione della prefettura, per capire questa sovrapposizione tra ambienti massonici e ambienti criminali, se sia un fatto isolato o se abbia una situazione più sistemica. Cioè, sono delle spie, il fatto che in alcune zone che sono notoriamente ad alta densità mafiosa ci sia anche un alto numero di iscritti ad alcune logge, giusto? Sì, sono degli indizi che fanno capire come alcuni ambienti si siano prestati meglio di altri a garantire reciproche impunità. Alla fine il problema non è tanto la massoneria, non credo che i mafiosi che in passato entravano a far parte di logge massoniche, a Stefano Bontade fino, si dice, dicono i magistrati, a Matteo Messina Denaro, lo facciano per ideali repubblicani mazziniani. E diciamo un contesto che si presta nella sua riservatezza, nel suo vincolo di reciproca solidarietà e nelle obbedienze dovute ad essere una camera di compensazione di interessi, di protezione, di impunità. Altrimenti non si capirebbe per quale ragione in alcune logge coperte, logge della cui esistenza non erano al corrente nemmeno i gran maestri dell'obbedienza massonica, si incontrassero esponenti delle istituzioni, imprenditori, politici e capimafia. Cosa avessero in comune se non la necessità di avere una camera di compensazione in cui interessi innominabili potevano trovare una loro saldatura. E come potrebbe entrare una Francesca qualsiasi, una normale professionista convinta di poter andare avanti solo con le sue forze in queste camere di compensazione in cui convergono invece interessi diversi, di categorie differenti e si fanno giochi più alti? È un soffitto di cristallo, invisibile ma assai percepito, quello che descrive chi deve confrontarsi soprattutto con i palazzi del potere pubblico in Calabria. È la sensazione, cioè, che tutto si decida altrove. Ed è anche questo, come sono i racconti di magistrati che in Calabria come in Sicilia hanno indagini aperte proprio sui rapporti tra logge e cosche, ad aver portato al sequestro degli elenchi degli iscritti. Un atto vissuto come una violazione e una persecuzione dal grande Oriente d'Italia, guidato dal maestro venerabile Stefano Bisi. Noi facciamo i nostri controlli, ma il Gran Maestro, gli ispettori, i presidenti dei collegi regionali del Grande Oriente d'Italia non sono pubblici ministeri, quindi a potere di farlo lo faccia. Mi chiedevo se secondo voi non esista un tema sulla possibilità, il rischio che in alcune realtà la rete massonica possa essere utilizzata per scopi illeciti. I nostri controlli sono approfonditi, però se i magistrati, che hanno ovviamente giustamente il potere di verificare e di esercitare, è giusto che facciano la loro azione. Vorrei ricordare che dei 70 indagati di un'inchiesta importante che ha riunito più filoni di inchiesta a Reggio Calabria, di iscritti al Grande Oriente d'Italia ce n'era uno ed uno solo. In compenso però dall'altra parte ci sono state anche racconti che parlano di 28 su 32 logge in Calabria, 28 su 32 sono a vario modo controllate dall'Andrangheta. Ma questo l'ha detto l'allora Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Giuliano Di Bernardo, che scappò, e l'ha detto riferendosi a quello che avrebbe detto un Gran Maestro aggiunto, un altro membro della giunta del Grande Oriente d'Italia di quel tempo, Ettore Loizzo di Cosenza. Però queste cose purtroppo non le può confermare Ettore Loizzo perché è morto, ma in un libro che lui ha scritto ha detto che quello che aveva pronunciato Di Bernardo era assolutamente non vero. Al di là di fughe, smentiti o mancate conferme, restano quelle parole di un ex maestro venerabile, secondo cui in Calabria su 32 logge, oggi in realtà sono almeno il doppio, 28 sarebbero state controllate dall'Ndrangheta. E in fondo, secondo alcuni magistrati come Gratteri, sta proprio in questa saldatura tra logge deviate e cosche, l'asso nella manica dell'Ndrangheta. Far parte della santa voleva dire avere contatti con i quadri della pubblica amministrazione, avere contatti con il potere reale e quindi non stare più ad accontentarsi del non a freddo, del non a caldo, ma entrare nella stanza dei bottoni, interagire col potere reale e decidere non solo chi deve vincere l'appalto, ma l'opera, se deve essere costruita e dove deve essere costruita. Quindi potere decisionale all'interno della pubblica amministrazione. Ed è fatto anche di tutto questo il muro contro cui Francesca e come lei tanti altri giovani professionisti calabresi finiscono per scontrarsi e alla fine troppe volte anche per farsi male e rinunciare, andando lontano dalla Calabria e lontano da quella cappa invisibile che blocca chiunque non nasca al suo interno di crescere. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.